Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi faremo un viaggio tra i formaggi, ma soprattutto faremo un viaggio nelle malghe. Di malga in malga andremo, partendo dal nord, ma andremo anche a fare una visita al sud. E allora cominciamo questo nostro bellissimo viaggio. Io immagino che gli appassionati di formaggio, gli appassionati di montagna siano molto interessati a questo argomento, anche perché di malghe in questo paese ce n'erano tante, ma ne sono rimaste ben poche, quindi ne abbiamo scoperte una decina in giro per l'Italia, ovviamente sono molto di più, ma noi andremo a visitare queste perché secondo noi offrono anche degli ottimi formaggi e delle peculiarità molto precise, diverse diciamo dal restante mondo dei formaggi. E allora cominciamo questo nostro viaggio dalla Val Camonica, siamo in provincia di Brescia ed abbiamo con noi Sonia Spagnoli. Buongiorno Sonia. Buongiorno a lei. La cosa molto divertente, bizzarra, è che Sonia Spagnoli è una studentessa universitaria, ma al tempo stesso è casara. Ecco il bello di abbinare queste due attività. Innanzitutto Sonia, che facoltà fai? Allora, io sono iscritta al terzo anno della facoltà di Agraria di Milano, in particolare seguo un corso che è stato avviato a Isolo, in Alta Valle Camonica, un corso per la valorizzazione dell'ambiente montano. Ma chi è che lo tiene, il professor Corti? Uno di questi corsi, cioè il corso di laurea, è stato attivato proprio dall'Università di Agraria di Milano come sede distaccata ad Isolo. E poi all'interno del gruppo docenti sicuramente trovo anche il professor Corti che insegnerà qui, che tiene un corso appunto al terzo anno. Ecco, come trovi il tempo di abbinare queste due importanti attività, perché sono faticose tutte e due? Sì, sicuramente. Io penso che sia davvero una bella esperienza riuscire a conciliare lo studio con l'attività pratica, e sicuramente queste due realtà si conciliano bene perché gli studi che porto avanti in questa facoltà appunto ad Agraria riescono ad aprirmi un po' le porte anche nella gestione dell'attività proprio familiare che mi vede partecipe, soprattutto legata al mondo delle malghe. Ecco, tu sei conduttrice dell'alpeggio Val Gabbia, ci parli un po' di questo tuo alpeggio e di quali produzioni di formaggio? Appunto, come ha detto lei, insieme alla mia famiglia gestisco questo alpeggio, che è un alpeggio di proprietà della regione Lombardia, collocato nella media Valle Camonica, un alpeggio particolare perché è caratterizzato dal fatto che è completamente isolato rispetto alle aree circostanti, perché la viabilità è data da semplici sentieri percorribili piedi, per cui la gestione all'interno dell'alpeggio è molto ancora tradizionale, manuale, fatta proprio di lavoro appunto manuale, e nella gestione ordinaria ci aiutiamo anche con l'aiuto proprio degli animali, dei cavalli e degli asini che ci aiutano ad alleggerire un po' il nostro carico di lavoro. Ecco, quale formaggio viene prodotto in questa malga? Per quanto riguarda le produzioni tipiche, produciamo il Silter, che è un formaggio tipico della Valle Camonica, che si produce proprio nella zona qui della nostra valle. È un formaggio a pasta semicotta, prodotto principalmente in malga. Si produce solo con latte vaccino della razza bruna alpina, che è appunto allevata qui nella nostra zona. È un formaggio che può essere fatto maturare per molti mesi, quindi può essere un formaggio a lunga stagionatura, oppure può presentare anche una stagionatura inferiore, tipo sui 6 mesi di stagionatura. Ecco, come lo vendete questo formaggio? Adesso diciamo che il commercio è ancora molto ristretto, è legato un po' alla zona di produzione, quindi qui in valle, però le prospettive sono appunto di riuscire ad aprirci anche ad un turismo e a delle vie di commercializzazione più ampie. Anche perché sicuramente sono prodotti tipici validi e che vanno preservati, perché sono anche prodotti un po' di nicchia e che vanno un po' valorizzati. Un'ultima cosa, Sonia, si può visitare la malga? Sì, infatti stiamo studiando anche degli itinerari per riuscire a coinvolgere turisti e appassionati per raggiungerci. Ci sono vari sentieri che arrivano appunto alla Malga e basta raggiungere la medievale Camonica, in particolare il comune di Berzo Inferiore, che è il comune di residenza della nostra Malga, e poi contattare la mia famiglia, me in particolare, e per cui venirci a trovare. Hai un sito, Mossonia? Adesso no, non ho ancora attivato nessun sito, però trovate tutte le mie informazioni sul sito di Amamont, che è il sito dell'associazione che è stata fondata insieme al professor Corti per la valorizzazione delle montagne e degli alpeggi. Bene, grazie Sonia e buona università. Buona università. E noi andiamo ora, facciamo un volo al sud, andiamo nella splendida Basilicata, andiamo a Calvello e troviamo un medico veterinario che ha un'azienda appunto e si chiama Luigi Di Trana. Buongiorno Di Trana. Salve. Buongiorno. Allora, io so che lei ha... Correggo subito, non sono un medico veterinario. Ah. Io sono, un medico, primario di un reparto di anestesia e rianimazione. Mi scusi io, tanto, ma... Bene. Mi ritrovo a condurre questa azienda, perché era quella di famiglia, l'ho ereditata da mio padre, che l'ha ereditata dal suo, e quindi io, resto aperto a queste soluzioni di tradizione, nonostante il mio lavoro prioritario, che è quello di medico, con l'aiuto di un fattore che è sempre stato con noi dalla sua nascita, perché il padre lavorava con mio padre, io ho sentito il dovere di non chiudere questa attività e conservarla. Come fa a combinare? Deve essere molto faticoso per lei, anche se capisco che è la passione che la porta a mantenere in vita questa azienda. No, il sabato e la domenica io non vado in weekend, vado in azienda a curare, anche a lavorare personalmente. Credo che questo mi aiuta anche nel recuperare, non vado in palestra, vado in azienda e lavoro. Senta, lei mantiene le vacche a 1200 metri? Io l'azienda è collocata a 1050 per la verità, sì. Però i pascoli arrivano anche a 1500. Ecco, e quante vacche ha? Io ne ho una sessantina di fattrici, oltre a un piccolo gregge di pecore, cavalli. Quindi lei trasforma in azienda il latte producendo caciocavallo podolico? Sì. Io produco il caciocavallo podolico, che è uno dei formaggi forse più antichi, perché antica è la razza podolica, qualcuno addirittura la fa partire dal Bos Primigenius, tracce di podolica e di formaggio caciocavallo se ne trovano anche in epoca romana, quindi è una tecnica di lavorazione standardizzata da secoli, con una razza antichissima, quindi con un patrimonio genetico che si trasmette da secoli, è un formaggio che secondo me ha dei valori aggiunti. Il valore aggiunto è sicuramente la qualità del latte. La vacca podolica va nei pascoli di questa montagna, perché tutti gli allevamenti sono ormai ubicati al di sopra dei 1000 metri. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in questo viaggio di malga in malga, di formaggio in formaggio, questa splendida realtà italiana che, come dicevo, sempre di più sta scomparendo per le ovvie difficoltà, ma sarebbe giusto salvarla, proteggerla e farla conoscere. Noi oggi cerchiamo proprio di far conoscere questa realtà difficile in cui ci sono, non dico eroi perché eroi è una parola troppo grossa, ma come abbiamo sentito, una studentessa universitaria che combina lo studio di agraria con appunto la sua malga, il dottor Di Trana che abbiamo in linea con noi a Calvello in Basilicata, addirittura che è un professore medico anestesista, quindi che vediamo appunto le difficoltà, però vediamo anche la passione straordinaria che questi casari, questi allevatori mettono nel loro mestiere. Ricontinuiamo con Di Trana, ci stava raccontando le bellezze e le bontà del caciocavallo podolico. Dottor Di Trana. Sì, dicevo, il valore aggiunto di questo formaggio e prodotto è che innanzitutto viene fuori da una monorazza e poi l'allevamento brado, cioè questa vacca va durante la notte nei pascoli sino a quote da 1000 a 1500, ritorna all'alba nella masseria dove c'ha il vitello in attesa e lì, come dire, si sottrae questo latte al mattino. 5 minuti dopo la fine della mungitura questo viene già trasformato in coagulo e quindi tutte le capacità organolettiche, nutrizionali vengono imprigionate e trasformate in formaggio. Bene. Poi c'è un secondo prodotto che in effetti credo che abbia un valore veramente di nicchia, è la cosiddetta manteca. La manteca altro non è se non una palla di burro circondata dalla pasta filata del caciocavallo e, come dire, si conserva anche per molti mesi. La rarità di questa manteca è che non è un burro derivato da panna, bensì notoriamente la panna è sempre molto ricca di colesterolo e di grassi. Mi ha preceduto, professore, mi ha preceduto, sì, su questa domanda, prego. Dicevo, quindi la nostra è una ricotta, è un burro ricavato da ricotta, quindi innanzitutto tutta la parte più grassa va con il formaggio, poi dal siero si sottrae questa ricotta che diventa burro, diventa quindi manteca. Bene, professore, dove si possono comprare i suoi prodotti? Io per la verità su questi prodotti c'è una richiesta enorme, per cui la produzione sicuramente scarseggia rispetto alla domanda. Bisogna ovviamente collegarsi un po' con questi pochi allevamenti che sono rimasti in montagna e diciamo che c'è qualche punto vendita, stiamo discutendo con la distribuzione più elevata per mettere, che so, in qualche angolino del supermercato questo un prodotto di nicchia. Indubbiamente io per esempio mi sono orientato su, tutta la mia produzione viene a monopolio, acquistata da un catering, quindi si avvia in una... Bene, bene, beato chi mangia appunto i piatti di quel catering. La ringrazio, professor Di Trana, grazie. Bene, ora facciamo, non dico una sosta, però facciamo così un intermezzo con, abbiamo parlato di eroi tra virgolette, ora parliamo di santi protettori, perché se c'è un santo protettore delle malghe, dei formaggi di montagna, sicuramente è il professor Michele Corti, professore di zootecnica all'Università Statale di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno Davide. Beh, lei tra le sue allieve so che ha Sonia Spagnolo. Sì. La studentessa, bene, la tratti bene all'esame, se lo merita, professore. Sì. Bene, Michele, volevo chiederti, ma sì. Io e Michele ci diamo del tu, quindi sarebbe così abbastanza banale che ora gli dessi del lei. Michele, volevo chiederti, cosa si può fare per salvare le malghe e questi straordinari formaggi? Perché credo che si ponga questo argomento più che altro. Guarda, innanzitutto io... di anni mi batto per una cosa, che il consumatore abbia la possibilità di distinguere quello che è autentico formaggio dal peggio. Posso dirti che in Svizzera addirittura c'è una normativa molto severa, ufficiale, che concede la denominazione al peggio, malga, soltanto a determinati requisiti. Per esempio non basta che il latte sia prodotto sui pascoli, ma bisogna che anche la caseificazione avvenga sul posto, quindi in montagna. Ci sono delle realtà anche molto interessanti, cioè in mente il Passo del Bernina, che forse molti conoscono, un alpeggio molto bello, ma siccome il latte viene portato a valle, anche se siamo sempre a 1000 metri, non hanno la possibilità, pur distinguendo il latte prodotto a 2000 metri da quello che viene dalle stalle, non hanno la possibilità di usare questo marchio, quindi condizioni molto severe. Ecco, voglio chiedere, questa domanda si pone, credo che anche il nostro radioascoltatore l'avrebbe sollevata, il latte di alpeggio o di malga portato in pianura dà veramente un formaggio diverso? Ma guarda, il latte ovviamente rimane lo stesso a parte un certo danneggiamento che inevitabilmente deriva dal fatto che viene trasportato nell'autocisterna, quindi sappiamo che i globuli di grasso sono abbastanza fragili, qualsiasi agitazione parte, comunque rompe questi globuli, e quindi ci sono degli enzimi che escono e che cominciano a lavorare. Però diciamo, io questo fatto del tenere a distinguere il formaggio di malga fatto nel singolo piccolo caseificio artigianale in cima alla montagna, tengo a sottolineare che inevitabilmente quando si raccoglie il latte arriva a valle, poi è un latte mescolato da più alpeggi, cioè il concetto si perde il cru. Bene Michele, rimani con noi perché ora continueremo, perché andiamo sul Monte Baldo, anche se in questo momento la persona di cui parleremo non è sul Monte Baldo ma è a Roncà in provincia di Verona. Buongiorno Giovanni Roncolato. Buongiorno. Che è direttore del caseificio La Casara. Roncolato, così navigando sul Monte Baldo. Navigando sul Monte Baldo un po' di tempo fa, ho saputo questa storia di questa ricreazione da parte vostra di una malga. Ce ne vuol parlare? Noi siamo produttori di Monte Veronese, non abbiamo una malga. Questo sogno era in circuito da molti anni e, come sapendo come si profanno le cose, per realizzare i progetti bisogna avvalersi di persone che abbiano magari le stesse idee, la stessa passione, e attraverso un corso che la Coldiretti allora organizzò a Verona elencai questo desiderio, cioè dissi a questi ragazzi: guardate che io ho questo desiderio di aprire una malga. E da lì partì tutto e scoprimo che sul Baldo non c'era più nessuna produzione di formaggio, e c'erano solo delle stalle, delle mandrie al pascolo, anche di ottima qualità, e attraverso il comune di Ferrara di Montebaldo abbiamo chiesto questo stabile abbandonato da 30 anni e ci siamo tirati su le maniche e abbiamo messo su una caldera di rame ristrutturata, una centrale termica eccetera, insomma abbiamo costruito questo piccolo caseificio, e da 3 anni che produciamo il Monte Veronese di Malga, tra l'altro che è anche un presidio, e altri formati che poi la gente acquista passando da questa zona, tra l'altro abbastanza turistica, molto conosciuta, vicino al lago di Garda. Ecco, quando è aperta la malga? In che periodo? Noi apriamo i primi di giugno e chiudiamo, diciamo, i primi di ottobre, dopo dipende dal tempo, insomma. Quindi si può visitare? Si può visitare, tra l'altro appunto è diventato un sito interessante perché molta gente ci chiede appunto le visite, ci chiedono queste cose, con molte difficoltà, come qualcuno prima ha aggiunto, le normative eccetera per produrre questo Monte Veronese, ma questo o questi formaggi, questo sicuramente è un esempio di come si può fare montagna, di come si può fare formazione e come si possa vivere in un ambiente molto molto interessante, insomma, che l'estate tra l'altro ci dà anche grandi soddisfazioni, cioè si sta bene, insomma. Sì, voi tra l'altro avete un caseificio a Roncà che produce tutta una serie di formaggi oltre a questo, quindi avete un Monte Veronese anche di malga. Sì, no, normalmente produciamo una quindicina di tipi di formaggio, siamo degli artigiani e siamo ormai diventati, insomma, da sempre facciamo questo lavoro, abbiamo poi le varie vie dove possiamo veicolare i nostri prodotti per la vendita. Questo però è un prodotto, come si diceva, molto interessante. Cioè, la malga effettivamente dà un valore aggiunto, il latte al pascolo dà molti problemi, perché voi sapete quali possono essere i problemi in montagna, di mungitura, di alpeggio, per cui ogni giorno abbiamo un latte diverso, con delle problematiche anche di riuscita. Cioè, non è che il formaggio che si fa in malga sia sempre eccezionale, ci sono dei formaggi ottimi, ci sono dei formaggi che invece sono molto scadenti, per cui dobbiamo anche qui imparare, migliorare, diventare veri e propri casari, stando sul caseificio o comunque sulla casera tutti i giorni e capendo come funziona questo latte, come si comporta, perché qui abbiamo temperature diverse, abbiamo un'altitudine completamente diverse da giù, per cui abbiamo anche delle risposte diverse, ecco. Bene, grazie a Giovanni Roncolato, che tra l'altro con La Casara in questi giorni è a Taste a Firenze, la manifestazione che dura dal sabato al lunedì. il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari radioascoltatori, vagando, cibo vagando di malga in malga, di alpeggio in alpeggio. Ebbene, questi prodotti straordinari sicuramente devono essere conosciuti, devono essere ancor più valorizzati, devono essere ancor più regolarizzati, come dice il professor Michele Corti, perché come ci ha detto Giovanni Roncolato, non è detto che tutti siano straordinari questi prodotti, ma anche lì, diciamo, ci sono delle differenziazioni. Abbiamo visto quanta difficoltà appunto si trova in montagna per il latte, le differenti temperature. Ma io continuo questa mia chiacchierata col professor Corti, gli voglio chiedere, Michele, ma tu pensi che sia possibile ricreare appunto le malghe laddove sono state completamente abbandonate? Beh, intanto ce ne sono molte che sono in semi abbandonate e sarebbero le prime da recuperare. Guarda, molto fanno anche normative forestali. Veniamo da un periodo in cui era molto difficile tornare al pascolo dove si era fermato il bosco. Ultimamente le cose stanno un po' cambiando, l'ultima legge forestale del Piemonte ha un po' allentato certi vincoli. Ecco, teniamo presente che in situazioni di media montagna il bosco in pochissimi anni riconquista gli spazi che aveva perduto. Quindi, considerato che c'è un forte aumento dei boschi, è proprio importante anche che ci sia maggiore facilitazione nel consentire il ritorno allo stato precedente di pascolo. Ma noi sappiamo che è facile storicamente dimostrare dove c'era il pascolo, ci sono i catasti, le cartografie. Ecco. Poi c'è la questione delle strade e dei fabbricati. Ecco. Chiaramente recuperare tutte le malghe diventa difficile, si devono fare delle valutazioni rispetto alla facilità di sistemare una strada, di avere l'acqua di qualità potabilizzabile e in base anche all'estensione, alla dipendenza, eccetera. Diciamo che i tecnici che si occupano della cosa tutti questi parametri li conoscono e non è difficile stabilire delle priorità di intervento. L'importante è che poi la cosa sia abbastanza coordinata, perché spesso i proprietari sono dei privati o i comuni e quindi a volte ci sono comuni che hanno tante malghe belle, interessanti, ma magari il bilancio non consente di intervenire o hanno minore facilità di accesso a finanziamenti regionali, eccetera, eccetera. Quindi l'importanza anche un po' di una programmazione non solo su scala del comune, ma su scala di comprensorio, di valle, di un territorio un po' più ampio, dove andare a individuare le priorità di recupero. In ogni caso, insomma, di situazioni anche molto potenzialmente interessanti, con buona produttività, ce ne sono ancora parecchie. Bene, sentiamo. Dove magari oggi ci sono i tori da carne, ecco, certo. Noi perdiamo questa. Io faccio sempre questo esempio: è come se nei vigneti di Bordeaux e del Brunello di Montalcino andassimo a fare il Viltavernello. Certo. E certo. Questo è un po' il concetto. Pascoli bellissimi, alta quota, erba che consentirebbe di produrre formaggi con grosse caratteristiche aromatiche, e ci vediamo su magari quattro tori da carne. Ecco, non ci rendiamo conto di quello che perdiamo. Michele, continua a rimanere con noi perché ora sentiamo tra l'altro una persona che conosci, andiamo in Trentino, andiamo da Laura Zanetti, che è presidente della Libera Associazione Pastori e Malghesi del Lago Rai. Zanetti, ci spiega Buongiorno, ci spiega cos'è il formaggio Lago Rai. Buongiorno, e innanzitutto un saluto a Michele Corti, che insomma il vostro padrino, è il vostro comitato scientifico. Il vostro padrino. Il nostro padrino. Ciao Michele. Bene, ma il nostro formaggio cos'è? Un formaggio che ha una storia millenaria. E abbiamo tentato di salvarlo una decina di fa, insomma, di fronte a quella terribile legge, la 54 se non sbaglio, eravamo nel 2000, insomma, quando tutti i piccoli cibi cosiddetti di nicchia, i cibi artigianali, stavano di fatto morendo, e quindi niente, io in quell'epoca ero giornalista, ho messo insieme questo gruppo di pastori malghesi che avevo intervistato e abbiamo creato questa associazione che è diciamo un'associazione libera da schemi ideologici. Soprattutto non abbiamo mai chiesto, ci stiamo autofinanziando in modo da non dover pagare gabelli di nessun tipo alla provincia di Trento, che lo sappiamo bene, insomma è un bel monolita. Cosa le posso raccontare? No, io vorrei sapere innanzitutto, cioè in Trentino era una delle, diciamo, dei territori più importanti dal punto di vista delle malghe, ma oggi mi sembra che ce ne siano rimaste veramente ben poche. Sì, certo. Noi avevamo, pensi soltanto al mio paese, Telve di Valsugana, a ridosso proprio, le montagne a ridosso di questa valle, ultima valle, ultima propaggine del Trentino, avevamo soltanto, fino agli anni 60, diciamo 50, 55, avevamo 40 malghe, 40 alpeggi, perché c'era la malga di sotto e la malga di sopra, e poi c'è stato tutto quanto, via via c'è stato tutta una... un rifarsi ai modelli isotecnici della pianura padana, è stato il dramma, il vero dramma e la rovina della montagna trentina. Quindi sono state vie abbandonate, sono state portate le grandi stalle, i fieni da fuori, l'integrazione sempre più abbondante. Penso che a tutt'oggi non esistano, esistono meno di un centinaio di alpeggi che fanno ancora il formaggio in maniera artigianale in malga. Bene, a grande fatica, perché i piccoli nella provincia trentina, nella ricca provincia trentina, non sono poi nulla aiutati, sono la cooperazione è un paradosso, no? Dovrebbe aiutare tutti i piccoli, invece aiuta soltanto le grosse stalle. Volevo rifarle questa domanda: la Gorai, che formaggio, che tipologia di formaggio è? Se no lo chiediamo a Michele Corti. No, glielo... prego. Noi l'abbiamo chiamato attraverso un disciplinare originale Malghe della Gorai, è un formaggio nostrano, i nostri vecchi lo chiamavano Nostran de Malga, però insomma il nostrano è un po' in tutto il Trentino, noi abbiamo voluto caratterizzarlo con questo nome perché la montagna della Gorai è una montagna estremamente ricca di un'acqua fredda, che è una particolarità che potrebbe anche aiutare una certa tessitura di aromi del formaggio, ma soprattutto il pascolo, che è un pascolo eccezionale, abbiamo un pascolo ricchissimo di essenze, soprattutto nella sua parte centrale della Gorai. Quindi diciamo un formaggio pasta semigrassa, lavorato al mattino, nelle prime ore del mattino, con fuoco a legna, noi abbiamo proprio fissato degli standard, delle regole molto chiare, quindi latte da pascolo, latte solo di quella di una determinata zona, di una determinata malga, uso di calio e dove è necessario l'aiuto anche con il latte innesto, non con i fermenti, con il latte innesto, la lavorazione di primo mattino con latte scremato della sera e latte intero della mattina. Poi la cosa molto interessante è che noi abbiamo lasciato ad ogni malghese la possibilità di utilizzare la propria ricetta personale per quanto riguarda per esempio la gradazione sia nel cagliaggio sia nel tempo appunto di cagliaggio, sia nella cottura, e anche la propria ricetta personale nell'affinamento, che questo è molto importante. Bene, io ringrazio Laura Zanetti, grazie, della Libera Associazione Pastori e Malghesi del Lagorai. Siamo in Trentino. Bene, ora torniamo in Veneto e andiamo nella zona di lingua cimbra, sì, perché è una lingua minore, ma esiste ancora, viene tuttora molto utilizzata nel territorio ed è una zona che appunto di derivazione cimbra con grande tradizione dal punto di vista casearia. Abbiamo con noi Luca Campara, titolare dell'azienda agricola Baito Jäger. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno. Nella vostra zona appunto di tradizione cimbra sono rimaste ancora qualche malga? Sì, noi siamo, anche noi abbiamo una malga dove andiamo a fare il pascolo nel periodo estivo, siamo sopra i 1500, abbiamo ancora, lo utilizziamo anche perché facciamo dei formaggi e abbiamo la richiesta proprio del formaggio di malga. Ecco, c'è un formaggio particolare, ha un nome particolare il vostro formaggio, lo chiamate formaggio di malga? Noi abbiamo il formaggio di malga, dopo abbiamo sempre simile alla lavorazione del Monte Veronese e non siamo nel consorzio, vogliamo avere un prodotto diverso proprio dal consorzio e... ma più che altro noi lavoriamo, sì, sono formaggi freschi, mezza stagionatura e stagionati. Dopo abbiamo anche molti formaggi cacciottine con le spezie, erba cipollina, stagionato nel fieno della nostra produzione e altri speziati, insomma. Ma questi ultimi non fanno parte, diciamo, del discorso dei formaggi di malga? Sono altri tipi di lavorazione che fate da altre parti o le fate direttamente? No, lo facciamo sempre noi. Abbiamo il laboratorio autorizzato e facciamo proprio tutta la produzione nostra con i nostri prodotti, insomma. Ecco, volevo chiederle un'altra cosa, ma appunto la zona Cimbra è una zona anche con una cucina molto particolare di cui in passato abbiamo parlato, ma le vacche vostre di che razza sono? Allora, noi abbiamo la maggior parte, abbiamo la frigione italiana. Stiamo cercando di introdurre delle altre razze per più robuste al nostro territorio, sempre con degli incroci, insomma. Ho capito, ma c'è stato un periodo in cui cioè la malga ha sempre funzionato, o avete avuto anche voi un periodo? No, noi siamo da molte generazioni, da mio bisnonno, e adesso sto portando avanti e teniamo ancora la malga perché abbiamo dei buoni riscontri col prodotto, essendo che facciamo la vendita noi dei nostri prodotti. Allora teniamo anche per quel discorso lì, anche per valorizzare, per tenere su un po' la nostra zona, perché altrimenti va in abbandono molte zone, i pascoli, i boschi e tutt'altro. Bene, voglio ricordare che mi sembra la vostra famiglia abbia anche un ristorante, se non vado errato. Sì, no, quello è gestito da mio cugino, collaboriamo assieme, forniamo noi i nostri prodotti, li forniamo, facciamo delle promozioni e delle serate a tema, sempre con piatti e prodotti della Lessigna. E mi sembra che ci sia anche un piatto particolare proprio tradizionale cimbro, che sono gli gnocchi sbattui, è così o sbaglio? Gnocchi sbattui, sì. Sono un piatto povero, chiamato povero tra virgolette, e fatto in Lessigna, e con nostri usiamo il burro e ricotta affumicata. Bene, lei ha fatto bene a ricordare che siamo in Lessinia, che è una splendida zona anche sicuramente da visitare, dove c'è anche una bellissima, c'è un bellissimo racconto su Bertoldo, quindi sulle famose bretelle di Bertoldo che poi sono diventate un piatto. Quindi anche la Lessinia, come il Monte Baldo, come tutti questi posti di cui abbiamo parlato, sicuramente non ci sono solamente delle malghe, dei grandi formaggi, ma c'è anche uno splendido panorama, uno splendido paesaggio da andare a visitare e ovviamente da rispettare. Io ringrazio Luca Campara. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cibo vagando di malga in malga, di alpeggio in alpeggio. E abbiamo in linea ora con noi, non dico che è l'omologo di Michele Corti al sud, ma insomma è un personaggio che, come Michele Corti al nord, al sud, ha fatto sicuramente delle cose straordinarie. Buongiorno Roberto Rubino. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Fondatore di Infosh, nonché direttore dell'Istituto Zootecnico Sperimentale di Bella in provincia di Potenza. Roberto, cosa succede al sud dal punto di vista degli alpeggi? Cioè, sono ancora attivi? Diciamo che è ancora una modalità sicuramente di produzione importante, oppure sta sparendo? C'è bisogno, ma il caso di dire che sono ancora attivi nonostante che nessuno se ne occupi, anzi nonostante che si faccia di tutto per in qualche modo farli chiudere. Tanto per fare un esempio, al nord quasi tutti gli alpeggi sono a norma di legge, al sud non me ne risulta che ce ne sia uno. Cioè, nonostante che la legge dica che devono essere i proprietari, quindi i comuni, a mettere a norma i caseifici, diciamo tutti quei locali dove si lavora il latte, non l'ha fatto nessuno, anzi c'è sempre un atteggiamento negativo nei confronti della pastorizia. Però comunque continuano ad esserci, perché per fortuna i consumatori se ne sono accorti. Adesso non so, il caciocavallo podolico, ma anche altri formaggi, ma soprattutto il caciocavallo podolico al sud, è diventato un grande formaggio anche nella testa dei consumatori, perché lo è sempre stato. Ma guarda che anche al nord è apprezzato il caciocavallo podolico. Sì, quindi doveva essere apprezzato qui, perché qui la gente doveva, certo, capire che c'erano dei grandi pastori. Non l'hanno capito i comuni, questo purtroppo è la verità. Rimani con noi, abbiamo anche un personaggio che ultimamente è stato un grande battagliere, ha fatto grandi battaglie, Paolo Ciapparelli, presidente fondatore dell'Associazione Produttori Valli del Bitto. Buongiorno Paolo. Buongiorno Davide. Ma le malghe sono rimaste, gli alpeggi sono rimasti nella Valle del Bitto o sono spariti tutti e tutto si fa a valle? Ma direi che noi siamo riusciti a tenerle, almeno per quel che riguarda le Valli del Bitto. Purtroppo l'alpeggio in generale sta prendendo quella posizione che ha detto lei, tengono le vacche in basso. Quindi cosa si può fare, Paolo? Cosa si può fare per salvare ancora? Guardi, io parlo per noi, perché noi abbiamo una produzione storica importante e, se Dio vuole, oggi molto apprezzata. Di conseguenza riusciamo anche a prendere un buon prezzo che permette di restare in alpeggio. Cosa si può fare? Noi, parlando per noi, abbiamo puntato tutto su quello che era la nostra storia, per cui una grande storia che era già grande qualità nel tempo, perciò abbiamo voluto mantenere a tutti i costi questa grande qualità, che è l'unico modo per poter salvaguardare questi alpeggi e poi di conseguenza farci pagare il giusto. E il consumatore come fa a capire questo, la differenza? Qui è uno dei grandi problemi. Oggi siamo invasi da troppi marchi, da troppe cose, e per cui il consumatore finale, che poi l'utente, che dovrebbe essere poi il beneficiario, quello che dovrebbe sapere fino in fondo cosa va a comprare, alla fine credo sia più che confuso. Io ripeto, continuo a parlare per noi. Noi in questo momento, credo che sappiate tutti, lo scontro che abbiamo a livello ministeriale, ma anche a livello di DOP europea, per cui quello che viene dipinto oggi come il sistema che dà più garanzie, le DOP, per noi sono invece causa di un problema grossissimo, perché oggi la DOP tutela sicuramente determinate produzioni, ma non le grandi produzioni storiche artigianali, perciò con pochi numeri. Noi ne siamo proprio un esempio. Bene, rimanga con noi anche lei, e ora torniamo al sud e andiamo in Molise. Andiamo da Carmina Colantuono. Buongiorno Carmina. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. In Molise è dura la vita sull'alpeggi? È durissima, poi in particolare per la mia di azienda, che facciamo ancora una cosa molto particolare. Noi facciamo ancora la transumanza, quindi ci spostiamo dal Molise alla Puglia, quindi siamo 6 mesi da una parte e 6 mesi dall'altra. E le lascio immaginare tutti i problemi tra due regioni, che problemi che possiamo avere, e, però insomma riusciamo e continuiamo a farlo proprio per far vivere i nostri animali in una condizione di benessere assoluto, ancora seguendo le stagioni e facendo dei prodotti che sono di un'eccellenza unica, perché sono fatti ancora come si facevano una volta. Che formaggi producete voi? Allora, noi produciamo caciocavallo podolico, perché noi abbiamo ancora la vecchia razza, abbiamo conservato la vecchia razza autoctona, e la manteca, che è un prodotto ormai che non si trova più, e poi vabbè scamorze, insomma, e altri prodotti. Senta Carmina, come si fa per comprare i vostri prodotti? Ma noi ci viene direttamente in azienda, oppure abbiamo iniziato un collegamento con enogastronomie, ristoranti, e quindi ci serviamo dei corrieri, quindi tramite spedizione. Ecco, ma in sede cosa significa? Ci dà un'indicazione, perché potrebbe interessare qualcuno? Allora noi stiamo praticamente per il Molise a Frosolone, in provincia di Isernia, e quindi abbiamo qui un'azienda, e la seconda azienda invece durante l'inverno sta a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, sul Gargano. Bene, io la ringrazio Carmine. E ora, prima di chiudere, mancano ancora un po' di minuti, voglio ricordare una manifestazione di beneficenza importante che si terrà a Milano il 23 marzo alle 19:30 al Palazzo del Ghiaccio, Chef for Haiti. Bene, 6 grandi chef: Andrea Berton, Gennaro Esposito, Massimo Bottura, Norbert Niederkofer, Giancarlo Morelli e Corrado Assenza, diciamo, serviranno una cena appunto al Palazzo del Ghiaccio con un contributo minimo di 300 euro e tutto il ricavato, lo ripeto, l'intero ricavato andrà devoluto alla Fondazione Rava a sostegno dell'emergenza a seguito del terremoto di Haiti. Bene, due battute di conclusioni a Michele Corti. Michele, lanciamo un ultimo SOS. Beh, l'SOS lo lancerei soprattutto ai protagonisti della ristorazione e a quei non numerosi affinatori molto professionali che abbiamo in Italia. Il formaggio d'alpeggio è una risorsa che moltiplica, un valore aggiunto sul territorio ma anche sull'immagine della gastronomia del territorio. Il paragone deve essere fatto con i vini più prestigiosi. I formaggi d'alpeggio non hanno la funzione di dire che gli altri formaggi prodotti in montagna sono meno buoni, ma hanno la funzione di dire che anche nel campo del formaggio ci sono delle eccellenze. È vero che si è detto che non sempre vengono al meglio, però in quelle condizioni bene. E avendo un mercato giusto che sa distinguere il prodotto che viene bene e lo sa pagare diverse volte più che un prodotto ordinario, tutto questo mette in moto un meccanismo molto interessante. Il formaggio d'alpeggio può anche essere cucinato, può finire nei piatti. Bene, grazie a Michele Corti, ti ringrazio della tua partecipazione. Roberto Rubino, SOS, anche te lo lascio lanciare. Ma io direi solo ai consumatori, quando andate in un negozio, un supermercato, non chiedete un formaggio, gli chiedete prima di tutto un formaggio che viene dal pascolo, dagli alpeggi, perché questo è cultura prima ancora di avere poi il piacere di assaggiare un grande formaggio. Ecco, ma in particolare per il sud io credo che si debba fare una grande comunicazione, perché penso che siano poco conosciuti molti formaggi del sud, pur straordinari. Purtroppo in parte è vero, anche se appunto la montagna rispetto al nord l'abbiamo fatta morire di più, in sostanza questo è stato un grande errore degli anni 70, Cassa del Mezzogiorno e cose di questo tipo. Adesso però piano piano, insomma, il caciocavallo podolico ha già preso la sua strada, ma altri formaggi, penso al ragusano, penso al caciocavallo palermitano, insomma, anche molti pecorini stanno venendo fuori, insomma, certo, sempre con un po' di lentezza, però. Roberto, un'ultima battuta, la transumanza sta riprendendo, è in grave crisi. La transumanza praticamente è scomparsa, tolta l'azienda Colantuono, insomma, tolta un po' di podolici sul Terminio, insomma, è rimasta poca cosa per tutta una serie di motivi, un po' quelli che ho detto prima, perché è stata sempre avversata dagli illuministi napoletani in poi, c'è stata sempre una lotta contro. Adesso chiaramente sono in pochi disponibili, però gli alpeggi ancora vivono, e i sistemi al pascolo ancora vivono, anche perché, ecco, il punto è sempre questo: il consumatore si sta accorgendo che i formaggi di animali al pascolo sono un'altra cosa, sono proprio un altro mondo, e quindi la richiesta anche di questi prodotti aumenta, e chiaramente aumentano i pastori. Ecco. Bene, grazie anche a Roberto Rubino, e così abbiamo chiuso questo viaggio tra malghe e tra alpeggi. Io spero che siano venuti fuori così delle indicazioni anche per il consumatore di come orientarsi, di come cercare anche queste chicche che di solito non si trovano al negozio sotto casa, ovviamente bisogna andarle a cercare. Certo, non è facile perché, come avrete capito, i casari di cui abbiamo parlato non è che sono attrezzati molto spesso per arrivare al mercato, ma credo che di fronte a una domanda che cresce probabilmente anche loro sapranno ben organizzarsi. Io vi do appuntamento domani alle 12.15 con il riposo del guerriero, e poi ancora ogni giorno alle 11.05 e alle 23.05. Buona giornata, buon weekend, e vi invito tutti a Taste a Firenze da oggi fino a lunedì, dove ci sono presenti 250 espositori artigiani del cibo con tantissime altre manifestazioni. Buon weekend da Davide Paolini.